tanta gente o da dentro alla TV. Fate attenzione, è scappato un toro, state chiusi in casa, non che grandi corna al toro, lui non si pettina mai, ma si ferma davanti alla vetrina per specchiarsi e sistemarsi un po'. Non va la corrida il toro, lì corre un rischio e lo sa, preferisce la box o l'ippodromo o andare a bere in un bar. Fate attenzione, è un toro intelligente, si è fermato col rosso. Passi vicino, yeah. Ano non può ballare un toro, vai a vedere adesso cosa fa, è furioso ma non fanno passare, sta puntando il gorilla del col toro, lui vuole un paio di jeans ed anche un Rolex d'oro, parecchi spot in TV, un nuovo telecomando per non cambiare mai, ed un torero vero per non pensare